Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. Melog. Il piacere del dubbio. Gianluca Nicoletti. Oltre 5,6 milioni di studenti riprendono oggi le lezioni. Tra misure di sicurezza, quali distanziamento, uso della mascherina, del gel disinfettante, misurazione della temperatura. Ci saranno difficoltà, disagi, soprattutto all'inizio, riconosce il Presidente del Consiglio Conte in un messaggio rivolto a tutti coloro che lavorano nella scuola, in particolare agli studenti. Ma sarà un momento di intensa emozione da capo di governo che ha lavorato al ritorno in sicurezza. Nel pomeriggio la cerimonia ufficiale di inaugurazione del nuovo anno scolastico all'Istituto Guido Negri di Vo. Anche la titolare dell'istruzione ha parlato dell'emozione per la riapertura delle scuole. Ci aspetta un anno straordinario e difficile, ha detto, ognuno deve essere responsabilizzato. La scuola è il posto più sicuro. Abbiamo inviato 94 milioni di mascherine. Beh, questa mattina il tema scuola mi sembra centrale nella programmazione di Radio 24 e sicuramente lo è centrale per la stragrande maggioranza delle famiglie italiane che hanno dei bambini o dei ragazzi in età scolastica. Mi sembra che in tutta la mattinata sono stati forniti ai nostri ascoltatori tutti gli elementi possibili di valutazione di quello che sta accadendo, dello statu quo. Noi vogliamo fare un passo laterale usando quella che è una delle caratteristiche tipiche della nostra trasmissione. Vogliamo sentire a 4 ore dall'apertura delle scuole qual è stata la ricaduta poi nell'assetto familiare, nell'umore familiare di questo inizio. Inizio che non è per tutti, ma per come abbiamo posto la domanda, il tema scuola comunque è importante elemento di collaborazione di chi ci ascolta questa trasmissione e vi spiego anche perché. L'impressione generale che ho avuto almeno io è che il tema scuola, fondamentale, cruciale, assolutamente fondamentale da questo punto di vista per la ripresa, per l'assetto, per la tenuta anche culturale di un paese, ma non soltanto culturale, anche sociale, è stato molto usato dalla politica, esattamente come in quelle famiglie in cui litigano i due coniugi, i figli diventano l'esito di tutte le tensioni fra marito e moglie. Molte volte il terreno di scontro, di tensioni tra familiari avvengono sui figli. Questo non è giusto, è terribile, è atroce, è deleterio e autodistruttivo per l'intero assetto di ogni membro della famiglia, per la famiglia intera, visto che la famiglia è tanto importante. Ma la famiglia istituzione si è mossa esattamente alla stessa maniera. Non c'è stata collaborazione tra le parti perché la scuola partisse comunque come un bene comune, un bene pubblico, qualcosa che stesse a cuore a tutti. La scuola è diventato terreno di scontro, tutti pronti a sottolineare, vedere, cercare di capire e godere di quella che era la defaianza dell'avversario. Detto questo, vorrei che oggi capire quanto tutto questo poi ha inciso nell'equilibrio delle famiglie. Chi ha dei figli in età scolare, chi ha già passato il lockdown, chi ha già passato tutta l'estate nell'attesa, sarà sicuramente, si sarà applicato come argomento di discussione al fatto di rimandiamo a scuola, come li rimandiamo a scuola, li rimanderemo a scuola. Ho saputo di situazioni folli, una scuola del centro di Roma, del quartiere strafighetto di Roma Nord, tutte le mamme, i papà e le colf filippine sono date appuntamento venerdì pomeriggio per mettere a posto la scuola, muovere i banchi, fare un'operazione di volontariato perché i bambini tornassero a scuola. E quindi mi sembrava folle che i genitori si ponessero questo problema, che i genitori dovessero collaborare, dovessero supplire, ma probabilmente in quell'ambito era molto forte il desiderio di rimandare i figli a scuola e questo mi sembra giusto. Quindi questa mattina mi servirebbe di sapere, ma è importante saperlo perché anche il polso poi dei terminali ultimi di tutto questo dibattito è importante, come avete affrontato voi il problema scuola della vostra famiglia, siano scuole inferiori, siano scuole materne, siano licei, scuole superiori, come l'avete affrontato, ne avete discusso, se l'avete discusso qual è stata la conclusione? Il sondaggio è proprio mirato a questo. 800240024. Dopo mesi di discussioni, analisi e contrapposizioni sulla chiusura delle scuole, è arrivato il giorno della riapertura, senza grandi certezze. Anzi, l'unica certezza è proprio questa, che al momento dobbiamo affidarci alla buona volontà di tutto il mondo della scuola e agli auspici che i provvedimenti presi siano efficaci per mantenere le scuole aperte anche nelle prossime settimane. Ma al di là del parere degli esperti, noi oggi vogliamo capire come tutto questo dibattito sia stato recepito dagli utilizzatori finali, vale a dire le famiglie degli studenti. Chiediamo il contributo dei nostri ascoltatori, in particolare a chiunque abbia ragazzi in età scolastica in famiglia, a cui chiediamo di raccontare se vi è stata una divisione sulle scelte da fare e a quali conclusioni si è arrivati. Chiamate ora all'800 24 00 24 e diteci quale di queste situazioni è più vicina a quella in cui vi trovate in famiglia. 1. In famiglia siamo tutti convinti che i nostri figli debbano tornare a scuola, pur correndo qualche rischio. Vigileremo per quanto possibile, ma senza dubbio siamo concordi. Tutti a scuola. 2. Nella nostra famiglia siamo concordi sul fatto che non ci sia un sistema che ci tenga al sicuro dal pericolo contagio. Quindi aspettiamo ancora una settimana prima di prendere una decisione. 3. La nostra famiglia si è divisa. Non c'è stato accordo tra chi vuole mandare i ragazzi a scuola e chi è disposto a continuare a tenerli in casa, con tutti i disagi del caso, perché non si fida di misure di contenimento del contagio. 800 24 00 24. Per darvi prova tangibile di quanto siamo dentro al problema, vi invito a guardare la versione video della nostra trasmissione dal sito di Radio 24, dal profilo Facebook, dove volete, di sotto ci seguite. Guardate, inquadrata in questo momento la regia di Roma con Alessandro Chiappini, che è immerso in un'aula scolastica, virtuale naturalmente, ma è solitario. Chiappini, che mi manda in onda da Roma assieme a Pietro Lacorte da Milano, a Gloria Guerrero e Fabrizio Intonti, è in un'aula scolastica. Quindi oggi parliamo della situazione in famiglia riguardo al problema della scuola. Abbiamo posto tre tipi di quesito, tre tipi di domande. Vi pregherei di rispondere in modo che i nostri esperti sondaggisti riescano a tracciare nell'arco di tempo in cui siamo assieme un ritratto della ricaduta nell'equilibrio familiare, nell'armonia familiare del problema scuola. Allora, prima punto numero uno, risposta numero uno: siete tutti convinti in famiglia che i figli debbano tornare a scuola, convinti che c'è un margine di rischio, mi sembra che nessuno l'abbia nascosto, stiamo in attesa di aspettare quello che può succedere o può non succedere, staremo tutti attenti, collaboreremo tutti perché si possa tornare a scuola, sempre nella migliore maniera possibile ovunque. Secondo punto, molto diffuso, siamo tutti un po' titubanti, aspettiamo una settimanella, tanto ci sono le elezioni, inutile andarci adesso, vediamo dopo le elezioni, dopo che avranno risanificato cosa è accaduto e con maggiore cautela torneremo a scuola. Terzo è il casino, in famiglia si litiga, il padre dice una cosa, la madre dice un'altra, lo zio dice un'altra, la zia dice un'altra, insomma non si è trovato accordo e quindi il tema li mandiamo a scuola o non li mandiamo a scuola è motivo di mugugno, di rabbia, di incertezza. Chi è convinto che bisogna fidarsi comunque delle istituzioni e andare a scuola, provando a salvaguardarsi il più possibile, a intervenire laddove si vedono lacune, chi dice no, fermi, non rischiamo di fronte al fatto di prendersi il Covid, stiamocene tutti fermi. Quindi vi chiedo di collaborare e darmi un quadro. Mi interessa questa mattina capire come è divisa oppure come si è unita la famiglia italiana media rispetto a questo problema. Cinzia, buongiorno. Buongiorno. Prima ascoltatrice. Buongiorno Cinzia. Allora, rispetto a questi tre punti, come l'avete vissuta a casa vostra? Allora, era indispensabile riprendere la scuola perché in un mondo che va avanti, che un'unica situazione, quella che vivo io, poi ce ne saranno anche altri in altri ambiti, non fosse al passo coi tempi, era impensabile. L'emergenza è sanitaria, non siamo più in emergenza e secondo me l'attenzione deve essere spostata all'assistenza, alle categorie deboli dal punto di vista sanitario. La scuola deve ripartire con dovute cautele, protocolli semplici, ma la quindi punto deve uno, la vostra famiglia ha vissuto decisamente, punto, diciamo, con omogenei pareri, siete tutti d'accordo, diciamo. Assolutamente sì, ci siamo presi le nostre responsabilità quando dall'oggi al domani ci è andato lo stop. È giusto che tutti si prendano le loro responsabilità quando è ora di ripartire. Perfetto, allora la prima risposta è punto uno del nostro sondaggio. Grazie Cinzia, sentiamo Enrico. Enrico, buongiorno. Buongiorno, sono Enrico da Genova. Noi siamo, penso, delle mosche bianche, sia io che mia moglie abbiamo paura. In parte per la scuola, delle precauzioni che ha preso, perché sono in 30 in classe più l'insegnante e l'aula è poco più grande, gli hanno assegnato una. Quindi siete il punto 2, siete il punto 2. Pensate che in questo momento conviene aspettare un attimo e vedere quello che succede, perché non vi fidate fino in fondo. Il punto 2, la vostra famiglia. Ho anche più paura anche del viaggio che non tanto della scuola, perché deve attraversare. Che classe fanno i suoi figli, per capire che classe sono, per capire anche. Quarto liceo. Quindi sono già grandini, ma la famiglia, diciamo. Quindi come, cosa fate? Aspettate il dopo elezioni per vedere quello che succede? Io aspetterei il dopo elezioni sicuramente. Domani lei. Perfetto, è chiaramente inserito nel punto 2. Edoarda, buongiorno. Buongiorno. Edoarda, sì, l'ascolto. Sì? L'ascolto. Niente, io sono propensa al punto 1 perché penso che almeno nella scuola dove va mia figlia abbiano assunto tutte le misure di sicurezza necessarie. Soprattutto perché penso che il problema dell'eventuale contagio per ragazzi come quella della come la mia, che hanno 14-15 anni, il problema sia più fuori dalla scuola che non dentro la scuola. Quindi, ecco, solo una cosa, perché è la seconda persona che ascoltiamo che ha figli, diciamo, 15 anni, già non proprio solo bambini. Sono interlocutori i ragazzi in questa questa decisione familiare? O la decisione passa sopra la loro testa? No, è fatta discutendo con noi genitori, assolutamente. Ecco, quindi diciamo tutta la famiglia sta discutendo in armonia sul fatto che tutto sommato, tutto considerato, conviene andare a scuola. Federico, buongiorno. Sì, buongiorno a lei. Allora, il suo punto innanzitutto nel sondaggio, intanto stabiliamo un parere generale. Direi il 2, essenzialmente però noi abbiamo deciso di ritirare da scuola tutti e due i figli. Drastica allora la decisione. Differente. Allora siete un punto 2 molto deciso, non vi fiderete nemmeno fra una settimana, fra 10 giorni, quando le cose saranno un pochino più statisticamente rilevabili. E dove li mandate i figli? Tenete a casa? Il più piccolo, seguiremo un programma di homeschooling, quindi per cui quanti anni ha piccolino? Sette anni. Quindi l'elementare decidete che è più tranquillo per voi farle a casa. Poi? Sì, mentre quella un po' più grande, che ha 12 anni, seguirà un percorso in privato, con la scuola privata, in lezioni telematiche. Quindi sempre a distanza, Quindi la scuola in presenza, ma per tutto questo anno voi pensate che è più tranquillo per voi evitare di andare a scuola in presenza, diciamo? Sì, anche perché per quanto riguarda almeno la ragazza, quella un po' più grande, aveva il problema di frequentare già una scuola particolare, che è una scuola nata per ragazzi con problemi di auditivi. E quindi per cui non c'era la possibilità di utilizzare la mascherina in scuola. La distanza sociale era da bocca a bocca 1 metro. Sì, c'è una situazione molto particolare. Senta, questa soluzione vi comporta, diciamo, un esborso economico maggiore rispetto, cioè avete fatto un sacrificio per fare questa scelta? Sì. E i figli sono d'accordo? Sono d'accordo con voi? Sì, sono d'accordo, perché la situazione in casa, abbiamo dei parenti con delle problematiche di salute, dobbiamo garantire a tutti una protezione. Va bene, questo è chiaro, molto chiaro nel punto 2, grazie. Maria Rosa, buongiorno. Buongiorno. Senta, io volevo appunto aderire al sondaggio della prima domanda. Quindi fiducia nella scuola, li mandiamo a scuola. Sì. Assolutamente, mio figlio ha 17 anni, frequenta il liceo, ma non è venuto neanche in mente né a noi né a lui, a parte che mio marito è un medico di medicina generale, per cui quello che abbiamo visto durante, diciamo, il confinamento già è stato abbastanza problematico, però mi sembra normale che i ragazzi. Va bene, sono molto tranchante perché mi interessa capire il campione statistico. Al momento prevale la fiducia, punto 1, con una certa, diciamo, titubanza per casi molto specifici nel punto 2. Nessuno ha chiamato per il punto 3, cioè nessuno ha voluto rivelare o nessuno ha registrato un dissidio in famiglia. Quindi al momento direi che le famiglie sono omogenee nella scelta, qualunque essa sia. Giampiero, buongiorno. Giampiero, buongiorno. Sì, buongiorno. L'ascolto. Niente, io telefono come insegnante, quindi sono insegnante alla secondaria di primo grado e volevo soltanto dire che da parte nostra sono state messe in opera tutte le misure preventive previste proprio per contenere e gestire nel migliore dei modi questa situazione. Però volevo solo far presente una cosa, che stamattina all'ingresso a scuola, mentre noi eravamo tutti pronti a far rispettare i ragazzi il distanziamento, eccetera, eccetera, mettersi la mascherina, gli stessi genitori però si avvicinavano assembrandosi con i ragazzi. Sono stato io costretto a dire: scusate, non è questo il modo migliore però di cominciare. Lei dice una cosa sacrosanta, che io vedo i primi reportage dei colleghi, vedo Flavia Amabile per il mio giornale, per La Stampa, sì, anche altri colleghi sono andati davanti alle scuole per raccontare che succedeva, più o meno dicono tutti sì, però davanti alla scuola i genitori, come se nulla fosse, si assembrano, continuano a fare i capannelli, esattamente come se ci trovassimo a gennaio febbraio 2020. Esatto. Quindi alla fine i buoni maestri non sanno anche i genitori dei figli, la scuola si attrezza, ma è inutile che le mamme fanno capannello tutte davanti alla scuola come se niente fosse. Ci fermiamo un istante. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Melog. Chiamate ora all'800 24 00 24 e diteci quale di queste situazioni è più vicina a quella in cui vi trovate in famiglia. 1. In famiglia siamo tutti convinti che i nostri figli debbano tornare a scuola, pur correndo qualche rischio. Vigileremo per quanto possibile, ma senza dubbio siamo concordi. Tutti a scuola. 2. Nella nostra famiglia siamo concordi sul fatto che non ci sia un sistema che ci tenga al sicuro dal pericolo contagio. Quindi aspettiamo ancora una settimana prima di prendere una decisione. 3. La nostra famiglia si è divisa. Non c'è stato accordo tra chi vuole mandare i ragazzi a scuola e chi è disposto a continuare a tenerli in casa. Con tutti i disagi del caso, perché non si fida di misure di contenimento del contagio. 800 24 00 24, stiamo cercando di coinvolgere le famiglie italiane che oggi hanno concretamente affrontato nelle loro case e nella loro progenie il problema della scuola, ponendo un quesito su 3 domande. Per voi oggi il ritorno a scuola è stata una necessità sulla quale non dubitate, cercando di collaborare il più possibile, mandate o manderete i figli a scuola. 2. Siete titubanti, non vi fidate fino in fondo, volete aspettare a vedere che succede, magari dopo le lezioni ce li manderete, o non ce li manderete per niente, come la famiglia che ci ha chiamato, vi attrezzate comunque per fargli continuare a distruirsi al di là dei, diciamo, dei percorsi tradizionali. 3. Il motivo scuola è stato scaturigine di dissidio familiare, non ci siamo messi d'accordo tra marito e moglie, abbiamo idee diverse e quindi stiamo vivendo in maniera particolarmente problematica il rientro a scuola. 800 24 00 24, sentiamo Giovanni. Giovanni, buongiorno. Buongiorno, salve dottor. Quale Nicoletti. Categoria? Quale categoria, Giovanni? La prima. Io fiducioso. Fiducia. Sì. Niente, noi in famiglia abbiamo parlato insieme anche con il nostro figlio che ha 12 anni, va alle medie, quindi siamo d'accordo nel rispettare quelle che sono le regole, perché sarebbe non vivere se uno si, cioè secondo me ovviamente, gli altri fanno come credono. Sì, sì, ma noi stiamo, guardi, lei ha la posizione finora prevalente a questo momento, la categoria 1 di quelli fiduciosi che hanno detto no, la scuola deve riprendere. Cercheremo di stare attenti, di vigilare, non come genitori che poi fanno capannello come se nulla fosse. Comunque staremo attenti, li mandiamo a scuola. È la posizione in questo momento che sta prevalendo nel nostro sondaggio. Adesso andiamo a vedere come sarà andando avanti. Sentiamo Rocco. Rocco, buongiorno. Buongiorno. Rocco, suo punto di vista. Il mio punto di vista è che ormai i tempi erano maturi per la scuola online, che già in altri paesi fanno, perché io ho visto che i miei ragazzi, io ho due ragazzi, uno che adesso ha 14 e l'altro ha 16 anni, che hanno studiato meglio online che non in presenza. In effetti poi c'è anche il... E quindi come vi siete comportati a scuola? Quindi lei per il punto 2, ma come vi siete comportati in questo caso? Li tenete a casa, trovate forme alternative, adesso, li mandate? Stamattina li ho mandati a scuola, tutte e due, adesso sono a scuola. Però il mio desiderio sarebbe di continuare online, perché in realtà è come se si fosse in presenza online. Poi uno va in vacanza, adesso indipendentemente dal coronavirus, cioè i tempi erano ormai già maturi per la scuola online, che io penso che questo sarà il futuro della scuola, anche se uno va in vacanza per esempio, e continua in presenza a studiare, ad essere presente a scuola. Ma questa è la posizione di Rocco, che comunque li ha mandati a scuola, quindi come comportamento si è tenuto sulla linea 1. Lui era per la linea 2, ma la linea 2 diciamo con una deriva culturale tipo diverso, è per la linea 2 perché pensa che l'occasione comunque di usare la didattica online, la didattica non in presenza, era da sfruttare meglio, cioè poteva esserci una forma di integrazione superiore, e visto che abbiamo fatto il grande salto, abbiamo sdoganato il fatto che si possa anche seguire lezioni non in presenza, bisognava insistere su questo settore come un passo avanti, non come un ripiego, un escamotage. Questa è la posizione di Rocco. Sentiamo Osvaldo. Buongiorno, la mia posizione ascolto. È la numero uno, sono favorevole a mandare i ragazzi a scuola, anche se sono genitore e marito di un insegnante della scuola secondaria. L'unica osservazione che mi ritengo di fare è questa, è quella di dire che forse sulle TV si vedeva che la scuola era pronta a ricevere tutti i ragazzi e qua e là, invece alla fine mia moglie mi ha confermato che mancavano 7 insegnanti, i banchi non erano arrivati. Alcune Ma dipende che televisione guardava, diciamo che la politica si è impossessata un po' di questo problema fondamentale, questa asse fondamentale di una democrazia. Chi ha proclamato la massima attenzione quando in realtà c'erano delle lacune, chi ha speso tutto il suo tempo per sottolineare le lacune invece di essere collaborativo. In ogni caso la vostra scelta è stata la numero uno, quindi alla fine, fatto salvo di tutto il contrasto e l'ambiguità di comunicazione, avete scelto per mandarli a scuola, quindi è prevalsa questa linea. E Claudia, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. L'ascolto. Allora, io sono anch'io favorevole, quindi gruppo 1, e anche perché invece mio figlio, 17 anni, ha sofferto tantissimo della didattica a distanza, nonostante diciamo l'impegno dei professori, ma mancava tantissimo la socialità che a quest'età è ancora prima. Che età ha suo figlio? Scusi, che età? Ho capito male. Che età ha suo? Uno 17, poi ce n'è un altro di 13 che invece è andato un po' meglio con la didattica a distanza. Quello di 17 però invece saranno un po' rifatti per socialità, diciamo, una volta usciti dal lockdown. Quest'estate mi sembra che i ragazzi hanno socializzato abbastanza, no? Sì, però il fatto di stare in classe, imparare in classe col professore, questa è l'esperienza mia. Sì, sì, per loro era fondamentale. Comunque, no, ma gruppo 1 deciso lei. Sì. Gruppo quindi uno deciso. Sì, con molti dubbi, perché comunque mi confermano i miei figli oggi che è tutto ancora molto da organizzare, chiaramente, insomma. Quindi vedremo. Però nonostante come quello va, domani ci torneranno, quindi ci si tira sulle maniche e si cerca di convivere con quella che è l'emergenza. Marco, buongiorno. Buongiorno. Ascolto. Buongiorno. È un 2 deciso per un bimbo della scuola materna in una famiglia di 2 medici. Un bimbo che inizia quest'anno la scuola materna a 3 anni in una scuola pubblica di Torino, dove sono previste delle classi da 24 bambini con 2 maestre, e quindi francamente si può fare un distinguo tra la scuola materna e la scuola elementare, media e superiore. Anche perché mi pare che c'è tutto un processo, diciamo, di ambientamento del bambino alla scuola materna, che è un po' difficile farlo in queste condizioni, o sbaglio? Senza mascherine è una bomba a orologeria, purtroppo non c'è altro esito da pensare per una classe della scuola materna, dove sicuramente, fortunatamente ad oggi sappiamo che i bambini si ammalano di meno e meno gravemente, ma il virus circola. Quindi comunque siete 2 medici, quindi sapete il fatto vostro. E cosa fate? La tenete a casa tutto l'anno? Lo terremo a casa, fortunatamente può ricevere un po' di stimoli, sicuramente sul piano educativo non è la scelta migliore, però in questo momento non vediamo altra. Diciamo, avete fatto la scelta, punto 2, abbiamo detto siamo medici, per non rischiare un bambino molto piccolo, si tiene un anno ancora a casa, faremo quello che possiamo a casa, ma abbiamo anteposto il problema della salute al problema della socializzazione. Mi sembra un punto 2 molto chiaro, molto deciso e soprattutto definitivo. Augusto, buongiorno. La scelta per noi è stata obbligatoriamente la 1, anche se avremmo voluto la risposta 2. Sono due bambine, una di 4 e una di 1 anno e mezzo. Io dalla mattina alla sera fuori per lavoro, mia moglie in casa in smart working, quindi era proponibile il discorso di tenerli a casa. Quindi siamo stati, tra virgolette, obbligati a mandarli a scuola. Cioè, voi fate parte di quelle famiglie che, per cui non c'è scelta, non si può scegliere, non possiamo più permetterci di tenere bambini a casa perché dobbiamo lavorare, è fondamentale, quindi ci affidiamo alla scuola, quindi punto uno deciso. Bassett, buongiorno. Sì, buongiorno. Ho pronunciato bene, non so. Bassett con due S. Bassett, benissimo. Sì, io sono quale punto la categoria, la prima. Quindi li ha mandati a scuola senza nessun dubbio. L'ho mandati a scuola, ma intanto c'è una buona notizia, al mio punto di vista, che fino ad oggi nessun bambino sotto i 14 anni ha preso coronavirus. È già qualcosa. Quello che mi preoccupa è mia moglie, perché fa il badante e prende poi trasporto pubblici. È quello lì che mi preoccupa di più. Cioè, lei è più preoccupato per il lavoro di sua moglie che per i bambini, perché le scuole fino adesso hanno fatto il possibile che stamattina partono tutto con sicurezza e tutto il resto. Quindi lei, diciamo, è abbastanza tranquillo per la scuola. In realtà la preoccupazione per il lavoro che fa la signora, che è più esposta, diciamo, a stare vicino a persone. Lavoro con i miei colleghi, anche quello lì mi preoccupa, perché ho deciso di mandarle, perché purtroppo devo mandarle, perché non c'è nessuno che ritiene a casa, è un fenomeno di cui non possiamo non tenere conto. Chi può permettersi di dire gli faccio la scuola privata, faccio la scuola a distanza, è fortunato, come sono fortunato io che sto trasmettendo da casa mia la trasmissione radiofonica, proprio per evitare viaggi, spostamenti, promiscuità con i colleghi, via dicendo. Ma chi deve lavorare, e se non lavora, non vive la famiglia, deve, gioco forza, collaborando, fidarsi che tutto andrà per il meglio. Ci fermiamo ancora un istante. Melog 800240024, vi do un risultato parziale. Il risultato parziale naturalmente deriva non soltanto dalle persone che avete sentito in onda, che è un campione significativo delle telefonate, che tante stanno arrivando attraverso tutte le piattaforme. Tenderemo a dire come dato parziale che il 70% delle persone che ci ha chiamato oggi ha mandato i figli a scuola o ha deciso che comunque dovrà mandarli a scuola. Non riusciamo ancora a scorporare quanti lo fanno per decisione serenamente presa, quanti per necessità, come l'ultimo ascoltatore, che hanno bisogno comunque di avere i figli a scuola perché sennò non possono lavorare. Un 20% è ancora titubante, aspetterà qualche giorno o in forma minima ha già preso delle soluzioni, come un ascoltatore che ci ha chiamato in prima parte, per continuare l'insegnamento a distanza, scegliendo scuole private, situazioni ristrette in cui c'è un controllo maggiore. Un 10%, anche se ancora non l'abbiamo sentito, ha come elemento di discussione, di incertezza familiare, questo tema, quindi se ne sta ancora discutendo in famiglia e non si è ancora presa una decisione. Sentiamo Gianluca, buongiorno. Buongiorno, sono di Verona. L'ascolto. E sinceramente, mi sente? Sì, benissimo. Grazie. Io e i miei figli non avrei voluto portarli a scuola oggi. Diciamo che io penso che sia importante fare la scuola, vorrei farla, però ritengo che non siano stati presi alcuni requisiti minimi di sicurezza. Cioè, io per esempio mi sarei aspettato che tutto il personale scolastico, bambini compresi, prima di aprire le porte avesse fatto un test e fosse risultato negativo. Quindi mi scusi se sono lievemente affettato, ma ci terrei a far parlare più persone possibili. Lei è una posizione 2, al di là di tutto lei ha, diciamo, parecchi dubbi sull'oggi e vorrebbe avere maggiori tranquillità. Michele, buongiorno. Sì, buongiorno Luca. L'ascolto. Sì, mi sente? Sì, anche qualche mamma, perché stanno chiamando molti papà e poche mamme, anche qualche mamma. Allora, guardi, Michele. Io ho una bambina che sta durando 6 mesi è già una settimana e mezza che va alla scuola materna, l'abbiamo mandata con tutte quante le restrizioni del caso, e quindi non per necessità, perché avevamo anche i nonni volendo, ma per proprio l'educazione. Non sono d'accordo con quel medico che ha chiamato prima, che ha detto io li tengo, perché se non iniziamo a tornare alla normalità, tutti con serietà e con convinzione. Comunque, sento pochissimo, però mi sembra di capire il suo punto uno, anzi lei è molto deciso sul punto uno, mi sembra chiaro. Scusi, leggo adesso un'agenzia uscita adesso dell'assessorato alla sanità della Regione Lazio, che dice esattamente quello che abbiamo registrato: non ci sono ancora, almeno nella Regione Lazio, problemi nelle scuole, ma l'unico vero grande problema è stato l'assembramento dei genitori davanti alle scuole, quindi i genitori hanno creato più casino di quante ne potessero creare i figli. Prendetelo come spunto di riflessione. Non serve chiacchierare, parlare, rivedersi con le mammine pancine e con i paparini bravini, ma serve mandare i figli a scuola, lasciarli lì e sgommare via. Pietro, buongiorno. Buongiorno. Allora, l'ascolto. Io sono per l'uno, posizione numero punto uno. Sì. E non sono molto d'accordo con un ascoltatore che mi ha preceduto, il quale diceva che per lui si dovrebbe fare tutto quanto online, perché la scuola è soprattutto una scuola di vita. Se i ragazzi che già passano un sacco di tempo con i dispositivi elettronici, chiamiamoli, se gli facciamo anche la scuola online, secondo me ci sono persone che difficilmente potranno affrontare la vita. Non sono posizioni di cui si può discutere, io sono convinto che comunque in parte dell'apprendimento scolastico, che è importante che si avvenga anche in presenza, naturalmente ci sarà un luogo fisico, potrebbe essere fatto online, potrebbero esserci delle attività di supporto alla scuola che si potrebbe usare bene l'online. Lei pensa che prima dell'evento Covid in Italia era una parola tabù, il vero grande problema era togliere i telefonini ai ragazzi che perdevano tempo, era levare ai ragazzi questa brutta abitudine di essere multitask, di essere sempre davanti a uno schermo. La scuola ha capito che lo schermo ha dei suoi vantaggi, ha cominciato a saperlo gestire. Speriamo che questa lezione serva, perché l'insegnamento in presenza può non prescindere comunque di avere attività in cui l'online è fondamentale. Stefano, buongiorno. Buongiorno, intanto complimenti per la trasmissione. Io grazie, sono nella categoria, categoria 1, ho due figli, ho 36 anni, e mia moglie è un'insegnante, e secondo me il più pericoloso del virus è non mandare i figli a scuola, oppure che siano troppo blindati, troppo distanziati, perché la crescita, soprattutto in età molto piccole, deve essere più normale possibile. Poi se c'è il virus, speriamo. Quindi mi sembra punto uno preciso, senza se, senza ma, mi sembra chiaro. Punto uno preciso, sì. Va bene, molte grazie. Stefano ha parlato? Sì, Claudio. Buongiorno dottore, buongiorno a tutti. Punto uno, tutta la vita, perché devono socializzare, soprattutto i bimbi dalle materne alle elementari, alle medie, devono avere le intese, sguardi, giocare insieme, socializzare, guardarsi, vivere insieme vicini, proprio corpo fisicamente. Non va bene la distanza, ci vuole la comunicazione corporale, non so, fisica, anche i ragazzini delle medie, delle superiori, le intese, i primi amori, nascono delle situazioni bellissime, bisogna che stiano insieme, socializzare. Sì, questo è un punto uno, mi sembra un punto uno talebano addirittura, in cui la scuola... Ma per la socializzazione, i bambini... Sì, però posso dire una cosa, mestamente, senza... Non perdiamo conto che la scuola ci si va per imparare, per studiare, soprattutto anche per socializzare, figuriamoci, è una cosa fondamentale, ma la stiamo emotivamente portando, l'elemento socializzazione della scuola, come elemento primario. Il risultato della scuola sarebbe essere riusciti a capire qualcosa, a avere una articolazione di giudizio e elementi di lettura articolata della realtà. Questo sarebbe fondamentale. Poi è chiaro che manca la socializzazione, ma forse la carenza di socializzazione per il lockdown mi sembra ampiamente recuperata durante l'estate. Detto questo, punto uno, che poi è il punto prevalente. Antonio, buongiorno. Buongiorno, sono un nonno a tempo pieno. Volevo parlare appunto della scuola. Innanzitutto, qual è la sua posizione rispetto a questo sondaggio? Poi dopo mi dice il suo giudizio. Il sondaggio che, vabbè, non l'ho sentito dall'inizio della trasmissione, volevo solo dire Come la pensa lei? Prevale il punto uno. io penso che si parla molto, che la politica abbia parlato molto della scuola e non è quel problema della politica che possa risolvere i problemi, perché io ho visto i ragazzi andare a scuola ordinatamente, ho visto uscire, stare in classe ordinatamente e ho visto uscire e poi si comportano, si sono discusso tanto sulle misure da prendere in classe e poi i ragazzi sia fuori della scuola si comportano esattamente come si comportavano prima del Covid e quindi la preoccupazione di tutte queste misure di distanziamento, si sa che i ragazzi una volta usciti dalla scuola fanno esattamente come facevano prima. L'Antonio dice una cosa sacrosanta di cui cominceremmo a discutere da domani. Oggi ci saranno telecamere di tutte le televisioni d'Italia davanti a tutte le scuole possibili, saranno giornalisti sparpagliati. Da oggi, a mezzogiorno in poi, cominceranno i servizi su quello che è accaduto alle scuole e sarà prevalente il comportamento al di fuori della scuola, nei limiti della scuola, nei paraggi della scuola. È vero, i ragazzi distanziati con i banchi a distanziamenti, con i rotelle, senza rotelle, con tutti i dispositivi possibili, immaginabili, quando usciranno continueranno a tornarsene a casa, a entrare in frotta negli autobus, a fare quello che hanno sempre fatto. Sondaggio finale rimane lo stesso, 70%.1, tutto sommato meglio la scuola, viva la scuola sempre, come sempre. Punto 2, aspettiamo, vediamo, non siamo d'accordo. Punto 3, ne stiamo discutendo a casa, 10%. Quindi 70, 20, 10 sui tre punti di questo sondaggio. Grazie a chi ha collaborato, alla prossima. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.